Abbiamo già in linea i prossimi paesi nel mirino. Vedo qui una notizia che in Francia i profitti del Crédit Agricole sono scesi di 2/3 per le perdite sul debito greco. E di notizie di questo genere ne avremo tante, sia sulle banche francesi sia sulle banche tedesche. E vediamo che la Francia ha varato un programma di austerità che è simile al nostro, solo più leggero, ma tra un po' probabilmente dovrà renderlo più pesante, perché il suo spread sta cominciando ad aumentare e dietro l'angolo ci sono gli Stati Uniti. Sì, quindi, per cui attenzione, che bisogna mettere in sicurezza l'Italia, perché in questo momento è il ventre molle, l'anello debole. Dopodiché non è che tu hai risolto i problemi mettendo in sicurezza l'Italia. Sull'Italia veniamo a Mario Monti. Ammesso e non concesso, giudicare da quello che sta circolando, insomma, che il governo si faccia, le vorrei chiedere una cosa. Monti deve puntare più sulla crescita che sul controllo del debito, paradossalmente. Direi deve fare tutte e due le cose. Sono due ruote della sua bicicletta. Controllo del debito è assolutamente necessario, deve essere fatto in maniera anche molto visibile dai mercati, altrimenti. E poi però se manca la crescita è un progetto che non può essere realizzato, perché mancando la crescita ci prendiamo ancora la bastonata di queste misure e lo Stato non incasserà quello che prevede di incassare, ma di meno, perché l'economia lavorerà di meno, quindi il cane che cerca di mordersi la coda, insomma, non va bene. Quindi bisogna introdurre ricostituenti. Ecco, cosa sono questi ricostituenti? Perché poi sui tagli abbiamo capito dove si andrà a parare. Sì, e quindi ricostituente non è mica facile, perché sì, ci sono alcuni ricostituentini facili che sono le solite liberalizzazioni, insomma, che poi alla gente non piacciono perché le categorie interessate non le sopportano bene, insomma, eccetera. Però poi bisogna metterci qualche soldo, quindi bisogna prendere qualche soldo in più e rimetterlo subito in circo in maniera diversa da come era messo prima, cioè nelle vene giuste che vanno a irrorare i tessuti che sono, si sono inariditi, e quello va fatto. Quindi io penso che in tempi non lunghissimi è necessaria un'altra manovra, possibilmente prima che ce lo dicano i mercati, che deve servire a finanziare politiche di sviluppo.